quelli che ci separavano. Tra di noi c'era un legame che molti ancora ci invidiano. La maggior parte dei rapporti alla fine crollano. Quello che mi hai dato non si cancellano, perché un vero amico lo è per sempre. Ed io dei veri amici non mi scordo quasi niente, come quando mi scodinzolavi e non lo meritavo. In quelle giornate grazie a te se meditavo di lasciare fuori casa quei problemi e sbattergli la porta in faccia perché tu c'eri. E ancora grazie per la forza di un soldato. Ho affrontato il peggio, ormai era passato. E col guinzaglio in mano andavamo a fare un giro. Mi portavi al parco, allegria da capogiro. Sin dal primo giorno ha ricominciato a battere. Questo cuore ha chiesto aiuto e tu mi hai fatto evadere. Quello che mi hai dato non sarà mai ricambiato, ricambiato. Ma la tua fede è sì che mi ha cambiato, mi ha cambiato. Quello che mi hai dato amore incondizionato, incondizionato. Illimitato, illimitato. Da perdere fiato. Quello che mi hai dato mi hai ricambiato, mi hai ricambiato. Quello che mi hai dato incondizionato, incondizionato. Quello che mi hai dato da perdere fiato, da perdere fiato. Illimitato, illimitato, illimitato, illimitato. La fiducia te la devi guadagnare, non si compra. La fedeltà non si discute, porta la tua impronta. Quello che mi hai dato per me conta. Mi ha accompagnato sin dal primo giorno la mia ombra. Ed ogni lacrima è un ricordo, io quegli occhi non li scordo. Sei entrato nel mondo di un bastardo vagabondo che in giro racconta che Dio ha creato i cani per rimediare al suo più grande errore, esseri umani. E come dargli torto io ti benedico. Ognuno di noi ha bisogno di un migliore amico. Parlando più di me che non mi faccio capire, quelli come te c'hanno un sacco di cose da dire. Ti apro nel cuore per darti amore, io brucio dentro, c'è stata un'esplosione. Quindi grazie per quello che mi hai dato, scodinzola lassù amico, per sempre te ne sarò grato. Quello che mi hai dato non sarà mai ricambiato, ricambiato. Ma la tua fedeltà sì che mi ha cambiato, mi ha cambiato. Quello che mi hai dato amore incondizionato, incondizionato. Illimitato, illimitato. Da perdere il fiato, da perdere il fiato. Da perdere il fiato, oh oh. Quello che mi hai dato e continua a dare, va oltre il concetto, tradire e fare. Va oltre il rispetto, il tradire e amare, è il punto massimo a cui arrivare. Quello che mi hai dato, un tetto d'un riparo, una famiglia da amare ed un sentimento raro. Un pasto caldo ed il tuo divano mi ha fatto sentire importante in un mondo avaro. Quello che mi hai dato è questo risultato, un rapporto basato su qualcosa di fondato. Fedeltà e fiducia, mi sono innamorato di qualcosa di speciale, un essere umano. E nessuno me lo toglierà nell'aldilà, quanti di voi parleranno di felicità. Resto fiero di esserti stato accanto, quello che mi hai dato, ora te lo canto. Quello che mi hai dato non sarà mai ricambiato, ricambiato. Ma la tua fede in te sì che mi ha cambiato, mi ha cambiato. Quello che mi hai dato amore incondizionato, incondizionato. Illimitato, illimitato.